Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Nona puntata. Mi stufo, diceva mia madre. Non ho più da fare, non c'è più niente da fare in questa casa. Sono andati via tutti. Io mi stufo. Ti stufi? Le diceva mio padre. Perché non hai una vita interiore? Il mio Mariolino, diceva mia madre. Meno male, oggi è sabato, verrà il mio Mariolino. Mario, difatti, veniva quasi ogni sabato. Apriva sul letto, nella stanza dove aveva dormito Ferrari, la valigia e tirava fuori con attenzione meticolosa il suo pigiama di seta, le sue saponette, le sue pantofole di marocchino. Aveva sempre belle cose nuove, eleganti, bei vestiti di stoffa inglese. «Tutta di lana, Lidia», diceva mia madre toccando la stoffa di quei vestiti. E diceva «Ce l'hai anche te la tua rubina», rifacendo il verso alla mia zia Drusilla, che usava dire così. Mario diceva ancora «Il baco del calo del malo», sedendosi un momento con me e con mia madre in salotto e carezzandosi le mascelle. Ma poi subito andava al telefono, prendeva misteriosi appuntamenti parlando a voce bassa. «Addio, mamma», diceva dall'anticamera, e non lo vedevamo fino all'ora di cena. I suoi amici Mario raramente li portava in casa e quando venivano non li faceva entrare in salotto, ma si chiudeva con loro nella sua stanza. Erano, quei suoi amici, uomini dall'aria risoluta e affaccendata, e anche Mario aveva ora sempre quell'aria affaccendata e risoluta. Sembrava che pensasse soltanto a far carriera nel mondo degli affari e che non gli importasse di altro. Non era più amico di Terni e non leggeva più né Proust né Verlaine. Leggeva solo libri di economia e di finanza. Le sue vacanze le passava all'estero, in crociere e viaggi. Non veniva più con noi in villeggiatura, se ne andava per conto suo. E a volte non si sapeva neppure bene dove fosse. «Dove sarà Mario?» chiedeva mio padre quando Mario era un po' di tempo che non scriveva. «Non se ne sa più niente? Non si sa che diavolo di vita faccia? Che asino?» Si seppe tuttavia dalla Paola che Mario andava spesso in Svizzera, non però per sciare. Non aveva più infilato uno ski ai piedi dal giorno che era uscito di casa. Aveva in Svizzera un amante, una magra magra che pesava non più di 35 kg, perché a lui piacevano le donne soltanto se erano magrissime e molto eleganti. Quella, raccontava la Paola, faceva il bagno 2 o 3 volte al giorno. E anche Mario, del resto, non faceva che fare il bagno, radersi e profumarsi con l'acqua di lavanda. E aveva sempre una gran paura d'essere sporco e di puzzare. Gli faceva schifo tutto, un po' come a mia nonna. E quando la Natalina gli portava il caffè, prendeva la tazza e la guardava da tutte le parti per vedere se era ben risciacquata. Mia madre di lui ogni tanto diceva «Mi piacerebbe che si sposasse con una brava ragazzina». E mio padre subito si infuriava. «Ma che sposarsi? Ci mancherebbe altro. Non voglio assolutamente che Mario si sposi!» Morì mia nonna e andammo tutti a Firenze per il suo funerale. Fu sepolta là, nella tomba di famiglia, col nonno parente, con Regina poveretta e con le molte altre Margherite e Regine. Mio padre ora diceva di lei, quando la nominava, «mia mamma poveretta», e lo diceva con un particolare accento di affetto e di commiserazione. Quando era viva, l'aveva sempre trattata un po' da stupida, come del resto trattava noi tutti quanti. Ora, da morta, i suoi difetti gli sembravano innocenti e puerili e meritevoli di pietà e di compianto. Mia nonna ci lasciò in eredità i suoi mobili. Erano mobili, diceva mio padre, di grande valore, A mia madre però non piacevano. Tuttavia la Piera, la moglie di Gino, disse anche lei che erano bellissimi e mia madre rimase un po' scossa fidandosi della Piera che, lei diceva, se ne intendeva molto di mobili. Ma li trovava troppo grandi e pesanti. C'erano certe poltrone che il nonno parente aveva fatto venire dall'India, di legno nero, tutte a forellini e con teste d'elefante ai braccioli. E c'erano seggioline nere e oro, credo cinesi, e una quantità di soprammobili e di porcellane, e argenteria, e piatti con lo stemma, che appartenevano in tempi lontani ai nostri cugini Dormitzer, i quali erano stati fatti baroni, avendo prestato soldi a Francesco Giuseppe. Mia madre aveva paura che Alberto, quando veniva dal collegio in vacanza, portasse qualcosa al Monte di Pietà. Perciò fece fare un armadietto a vetrina che si poteva chiudere a chiave, e là ripose tutte quelle piccole porcellane. Diceva però che quei mobili di mia nonna non erano adatti alla nostra casa, che la ingombravano e non facevano nessuna figura. «Sono mobili», ripeteva ogni giorno, «che stonano nella via Pallamaglio». Allora mio padre decise che avremmo cambiato casa e andammo ad abitare in Corso Re Umberto, in una casa bassa, vecchiotta, che guardava sui viali del Corso. Noi avevamo un appartamento al pian terreno e mia madre era tutta contenta di stare di nuovo al pian terreno perché così si sentiva più vicina alla strada e poteva uscire e entrare senza far scale. Poteva uscire, diceva, anche senza cappello. Il suo sogno era sempre uscire senza cappello, cosa che mio padre le aveva proibito di fare. «Ma a Palermo», diceva mia madre, «uscivo sempre senza cappello». A Palermo era 15 anni fa. Guarda la Francis. La Francis mai va fuori senza cappello. Alberto lasciò il collegio e venne a Torino a dare la licenza liceale. Fece dei begli esami e fu promosso con ottimi voti. In casa restammo stupefatti. «Vedi che te lo dicevo, Beppino», disse mia madre. «Vedi che quando vuole studia». «E ora?» disse mio padre. «Ora cosa si potrà fargli fare?» «Ma cosa ne farete voi di Alberto?» disse mia madre rifacendo il verso alla mia zia Drusilla che le diceva sempre così. La mia zia Drusilla aveva anche lei un figlio che non studiava e perciò mia madre usava a dirle a sua volta «Ma cosa ne farete voi di Andrea?» La zia Drusilla era quella che diceva «Però ce l'hai anche te la tua robina!» Veniva certe estati in villeggiatura insieme a noi, prendeva in affitto una casa vicino alla nostra. E allora mostrava a mia madre i vestiti di suo figlio e diceva «Sai, Andrea ce l'ha anche lui, la sua robina». La Drusilla, subito appena arrivata in montagna, andava alla stalla dove vendevano il latte e diceva «Io sarei disposta a pagare anche qualcosina di più, ma il latte vorrei che me lo portaste un po' prima che agli altri». Finiva che il latte a lei lo portavano alla stessa ora che a noi, ma glielo facevano pagare di più. «Ma cosa ne farete voi di Alberto?» ripeté mia madre per tutta l'estate. La Drusilla quell'anno non c'era con noi perché aveva perduto da tempo l'abitudine di venire con noi in montagna. Ma mia madre si sentiva echeggiare all'orecchio la sua voce. Alberto, interrogato, disse che avrebbe studiato medicina. Lo disse con aria tra indifferente e rassegnata, stringendosi nelle spalle. Era Alberto, un ragazzo alto, magro e biondo, col naso lungo, e aveva successo con le ragazze. Mia madre, quando frugava nei suoi cassetti in cerca di bollette del Monte di Pietà, trovava una catasta di lettere e fotografie di ragazze. Non vedeva più Pestelli, che s'era sposato, né Paietta, che dopo il riformatorio era stato di nuovo arrestato, processato al Tribunale Speciale e mandato in carcere a Civitavecchia. Ora aveva un amico che si chiamava Vittorio. «Quel Vittorio», diceva mia madre, «è un bravissimo ragazzo, così studioso. È di una famiglia molto per bene. Alberto, lui è un manfano, ma gli amici gli sceglie sempre bene». Alberto non aveva smesso di essere, nel linguaggio di mia madre, un barabba e un manfano, parola che non so bene cosa volesse dire, anche adesso che era passato alla licenza liceale. «Ma scalzone farabutto!» urlava mio padre la notte quando Alberto rientrava e si era tanto abituato a urlare così che urlava anche quando lui rientrava per caso presto. «Ma dove diavolo sei stato fino a quest'ora?» «Sono stato un momento ad accompagnare un mio amico», rispondeva sempre Alberto con la sua voce fresca, ilare e leggera. Alberto andava dietro alle sartine. Andava dietro, però, anche alle ragazze di buona famiglia. Andava dietro a tutte le ragazze. Gli piacevano tutte. E siccome era allegro e gentile, corteggiava per allegria e gentilezza anche quelle che non gli piacevano. Si iscrisse in medicina. E mio padre se lo trovava davanti nell'aula di anatomia. E non gli piaceva niente trovarselo lì. Una volta era buio nell'aula e mio padre faceva delle proiezioni e vide nel buio una sigaretta accesa. «Chi fuma?» urlò. «Chi è quel figlio di un cane che si è messo a fumare?» «Sono io, papà», rispose la nota voce leggera e tutti risero. Quando Alberto doveva dare un esame, mio padre era fin dal mattino di pessimo umore. «Mi farà fare una brutta figura, non ha studiato niente», diceva mia madre. «Aspetta, Beppino», lei rispondeva. «Aspetta, non lo sappiamo ancora». «Ha preso 30», diceva mia madre. «30?» lui si infuriava. «30! Gliel'hanno dato perché è mio figlio! Se non era mio figlio, lo bocciavano!» E si faceva più nero che mai. Alberto diventò più tardi un medico molto bravo, ma mio padre non se ne convinse mai. E quando mia madre o qualcuno di noi non stava bene e esprimeva il desiderio di farsi visitare da Alberto, mio padre rompeva in quelle sue tuonanti risate. «Ma che Alberto? Cosa volete che sappia Alberto?» Alberto e il suo amico Vittorio passeggiavano per il corso Re Umberto. Vittorio aveva i capelli neri, spalle quadrate e il mento lungo e prominente. Alberto aveva capelli biondi, un naso lungo e il mento corto e sfuggente. Alberto e Vittorio parlavano di ragazze. Parlavano tuttavia anche di politica, perché Vittorio era un cospiratore politico. Alberto non sembrava interessarsi affatto alla politica, non leggeva i giornali, non dava giudizi e non interveniva mai nelle discussioni che ancora esplodevano a volte fra Mario e mio padre. Era però attratto dai cospiratori. Fin dal tempo di Paietta, quando erano lui e Paietta ragazzini in calzoni corti, Alberto si era sentito attratto dalla cospirazione, senza tuttavia per nulla prendervi parte. Amava essere l'amico e il confidente dei cospiratori. Mio padre, quando incontrava Alberto e Vittorio sul corso, li salutava con un freddo cenno del capo. Non lo sfiorava neppure da lontano l'idea che potessero essere quei due, uno un cospiratore e l'altro il suo confidente. Inoltre, le persone che usava vedere in compagnia di Alberto gli ispiravano un sospettoso disprezzo. E poi mio padre non pensava che ancora esistessero in Italia dei cospiratori. Pensava di essere uno dei pochi antifascisti rimasti in Italia. Gli altri erano quelli che usava incontrare in casa della Paola Carrara, quell'amica di mia madre che era stata, come lei, amica della Kuliscioff. «Stasera», diceva mio padre a mia madre, «andiamo dai Carrara. Ci sarà Salvatorelli». «Che bellezza», diceva mia madre. «Sono proprio curiosa di sentire cosa dice Salvatorelli». E dopo aver passato una serata in compagnia di Salvatorelli nel salottino della Paola Carrara, che era pieno di bambole perché lei usava fabbricar bambole per un'opera di beneficenza di cui si occupava, mio padre e mia madre si sentivano un po' confortati. Non era stato detto magari nulla di nuovo, ma tra gli amici di mio padre e mia madre molti erano diventati fascisti, o almeno non così apertamente e dichiaratamente antifascisti come a loro piaceva. Perciò si sentivano, col passare degli anni, sempre più soli. Salvatorelli, i Carrara, l'ingegnere Olivetti erano i pochi antifascisti rimasti per mio padre al mondo. Essi conservavano con lui ricordi del tempo di Turati e di un altro costume di vita che sembrava fosse stato spazzato via dalla terra. Stare in compagnia di queste persone significava per mio padre respirare un sorso d'aria pura. C'erano poi Vinci Guerra, Bauer e Rossi, chiusi da anni in carcere per aver cospirato in altri tempi contro il fascismo. A loro mio padre pensava con venerazione e pessimismo, non credendo che sarebbero usciti mai. C'erano poi i comunisti, ma mio padre non ne conosceva nessuno, salvo quel Paietta che ricordava bambino in calzoni corti, che associava alle malefatte di Alberto e che gli appariva un piccolo e spericolato avventuriero. Intorno ai comunisti, comunque, mio padre non aveva a quel tempo un'opinione ben definita. Nuovi cospiratori, nella generazione dei giovani, non pensava che ce ne fossero. E se avesse sospettato che ce ne potessero essere, gli sarebbero sembrati dei pazzi. Secondo lui non c'era, contro il fascismo, nulla, assolutamente nulla da fare. Quanto a mia madre, lei aveva un'indole ottimista e aspettava qualche bel colpo di scena. Aspettava che qualcuno un giorno, in qualche modo, buttasse giù Mussolini. Mia madre usciva la mattina dicendo: «Vado a vedere se il fascismo è sempre in piedi, vado a vedere se hanno buttato giù Mussolini». Raccoglieva allusioni e voci nei negozi e ne traeva auspici confortevoli. A pranzo diceva mio padre: «C'è in giro una grandissima scontentezza, la gente non ne può più». «Chi te l'ha detto?» urlava mio padre. «Me l'ha detto», diceva mia madre, «il mio verduriere». Mio padre sbuffava con disprezzo. La Paola Carrara riceveva settimanalmente il Journal de Genève, pronunciava il francese così. Aveva a Ginevra sua sorella, la Gina, e suo cognato, Guglielmo Ferrero, emigrati là da molti anni per motivi politici. La Paola Carrara faceva ogni tanto viaggi a Ginevra, però a volte le toglievano il passaporto e non poteva allora andare dalla Gina. «Mi hanno levato il passaporto, non posso andare dalla Gina!» Il passaporto poi glielo restituivano e allora partiva e tornava dopo qualche mese piena di speranze e notizie rassicuranti. «Senti, senti cosa mi ha detto Guglielmo, senti cosa mi ha detto la Gina!» Mia madre, quando voleva alimentare il suo proprio ottimismo, andava dalla Paola Carrara. La trovava però, a volte, nel suo salottino semibuio e pieno di perline, di cartoline, di bambole, tutta imbronciata. Le avevano levato il passaporto o non le era arrivato, e lei pensava che glielo avessero sequestrato alla frontiera, il Journal de Genève. Mario lasciò il suo impiego a Genova, prese accordi con Adriano e fu assunto alla Olivetti. Mio padre ne fu in fondo contento, ma prima d'esserne contento s'arrabbiò, temendo fosse stato assunto perché era cognato di Adriano e non per i suoi meriti speciali. La Paola ora aveva casa a Milano. Aveva imparato a guidare l'automobile e andava e veniva fra Torino, Milano e Ivrea. Mio padre disapprovava, trovando che non stava mai ferma in un posto. Tutti gli Olivetti, d'altronde, non stavano mai fermi in un posto ed erano sempre in automobile, e mio padre disapprovava. Mario dunque andò ad abitare a Ivrea. Prese là una camera e passava le sue serate con Gino, discutendo problemi di fabbrica. Era sempre stato con Gino in rapporti freddi, ma in quel periodo strinsero amicizia. Mario, tuttavia, a Ivrea s'annoiava a morte. Mario aveva fatto nell'estate un viaggio a Parigi. Era andato a trovare Rosselli e gli aveva chiesto di essere messo in rapporto a Torino con i gruppi di Giustizia e Libertà. Aveva deciso, d'un tratto, di diventare un cospiratore. Veniva a Torino il sabato. Era sempre uguale, misterioso, meticoloso nell'appendere i suoi vestiti dentro l'armadio, nel disporre nei cassetti i suoi pigiami, le sue camicie di seta. Stava poco in casa. Metteva l'impermeabile con aria risoluta e affaccendata, usciva e di lui non si sapeva nulla. Mio padre lo incontrò un giorno sul corso Re Umberto in compagnia di uno che conosceva di vista, un certo Ginzburg. «Cosa da fare Mario con quel Ginzburg?» disse a mia madre. Mia madre si era messa da qualche tempo a studiare il russo per non stufarsi e prendeva lezioni insieme alla Francis dalla sorella di Ginzburg. È uno, disse mia madre, coltissimo, intelligentissimo, che traduce dal russo e fa delle bellissime traduzioni. Però, disse mio padre, è molto brutto. Beh, si sa, gli ebrei sono tutti brutti. E tu, disse mia madre, tu non sei ebreo. Difatti, anch'io sono brutto, disse mio padre. I rapporti tra Alberto e Mario erano sempre molto freddi. Non scoppiavano più tra loro le antiche lotte furibonde e selvagge. Tuttavia, non scambiavano mai una parola. E incontrandosi nel corridoio, non si salutavano mai. Mario, quando gli nominavano Alberto, incurvava le labbra dal disprezzo. Mario però ora conosceva Vittorio, l'amico di Alberto, e capitò che si incontrassero Mario e Alberto sul corso faccia a faccia con Ginzburg e Vittorio, i quali si conoscevano bene. E capitò che Mario li invitasse tutti e due, Ginzburg e Vittorio, a casa a prendere il tè. Mia madre, quel giorno che loro vennero a casa a prendere il tè, fu tutta contenta, perché vedeva Alberto e Mario insieme e vedeva che avevano gli stessi amici. E poi le pareva d'essere tornata al tempo di via Pastrengo, quando venivano gli amici di Gino e la casa era sempre piena di gente. Mia madre, oltre a prendere lezioni di russo, prendeva anche lezioni di pianoforte. Le lezioni di pianoforte le prendeva da un maestro che le aveva consigliato una certa signora Donati, che anche lei si era messa in età matura a studiare il pianoforte. La signora Donati era alta, grande, bella, coi capelli bianchi. La signora Donati studiava anche la pittura nello studio di Casorati. Anzi, la pittura le piaceva più ancora del pianoforte. Idolatrava la pittura, Casorati, lo studio, la moglie e il bambino di Casorati e la casa di Casorati, dove a volte era invitata a pranzo. Voleva convincere mia madre a prendere lezioni da Casorati anche lei. Mia madre però resisteva. La signora Donati le telefonava ogni giorno e raccontava come si era divertita a dipingere. «Ma tu», diceva la signora Donati a mia madre, «tu non senti i colori». «Sì», diceva mia madre, «mi pare che sento i colori». «E i volumi?» continuava la signora Donati. «I volumi li senti?» «No, non sento i volumi», rispondeva mia madre. Non senti i volumi? No. Ma i colori? I colori li senti?